Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, e ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il saluto vi viene naturalmente anche di là dal vetro, dove ci sono Mirella Lucchetti e Massimo Brugnone, Robby Scaltriti alla parte tecnica. Vi ricordo che per porre domande o commentare le puntate che quotidianamente vi accompagnano ci potete raggiungere alla mail nessunluogo@radio24.it, via SMS 349-238-6666 e poi su Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, infine su Twitter Nessun Luogo 24. Ma oggi partiamo dal buio indiano. New Delhi enduring another day of electricity outages. More than half the country left without power after three grids collapsed. Mangalwar ki ye daravni tasveerein budhwar ko nahi dikh rahi hain. I'm waiting for a last one hour for the metro. Nobody to give an explanation. The world is laughing at India for the mess that we've landed ourselves in. Can Veerappa Moily ensure the lights don't go off? Il peggior blackout degli ultimi 10 anni in India, titola oggi Il Guardian, il quotidiano inglese, parlando di 300 milioni di persone colpite, 5 volte, pensate, la popolazione indiana e italiana. Times of India, invece, parla di 600 milioni di persone colpite. E ampio risalto da queste notizie, questi ultimi 3 giorni di andirivieni dell'energia elettrica nel grande stato indiano, l'Independent, che ricorda che ci sono state manifestazioni la settimana scorsa in parecchie città indiane. E ricorda come nel 2001 il blackout, un blackout simile, costò al paese in un solo giorno 70 milioni di sterline. Ma ascoltiamo le ultime da Nuova Delhi e le ascoltiamo tramite la voce di Smiti Refenderem, reporter dell'Hindu. Right now it's much better than before. In fact, it's been almost restored. La giornalista ci racconta come oggi la situazione sia migliorata, ma gli ultimi giorni sono stati molto difficili. La corrente è mancata in quasi 21 città. Il primo blackout si è verificato lunedì mattina alle 2, ma l'elettricità è stata ripristinata nelle maggior parte delle zone al buio prima dell'inizio dell'orario di lavoro. Per cui lunedì, dice la giornalista, non abbiamo avuto grossi disagi, ma ieri è andata peggio. È successo nel pomeriggio attorno all'1. 3 reti elettriche sono saltate nello stesso momento, il che vuol dire che più della metà della nazione si è ritrovata senza corrente. La metro è collassata, i voli aerei non hanno avuto grossi problemi, ma per esempio i nastri trasportatori per i bagagli negli aeroporti sono rimasti bloccati, così come gli ascensori. La zona rimasta senza corrente è ricca di industrie che per quasi 2 giorni sono rimaste ferme. Credo proprio, conclude la reporter, che ci saranno conseguenze in termini economici al momento non ancora quantificabili. Che cosa significa un blackout di queste dimensioni per un paese come l'India, per un colosso economico come il paese asiatico? Insomma, fragilità strutturali, un paese complesso, a molte velocità, anche una potenza nucleare, lo ricordiamo, ma allo stesso tempo, incredibilmente, troppe aree condizionate accese creano, tra gli altri motivi, il blackout. Cerchiamo di capirne meglio, di capirne qualcosa in più con Sauro Mezzetti, che è presidente della Camera di Commercio Indo-Italiana di Chennai, agente consolare onorario per Pondicherry ed è membro del comitato scientifico di Osservatorio Asia. Dottor Mezzetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, la prima domanda è questa: le cause di un blackout di così vaste proporzioni? Ma le cause di un blackout di così vaste proporzioni sono dovute a un picco eccessivo di domanda rispetto alla capacità installata. Ecco, questo non è un fenomeno nuovo, tant'è che in India è abbastanza normale vivere con tagli programmati, anche nel mondo industriale stesso, ecco, l'industria deve fare i conti con questa realtà. Ecco, in molte parti del paese vi è la chiusura scaglionata, ecco, durante i giorni lavorativi della settimana, ecco, proprio per non avere le industrie attive nello stesso momento. Ecco. In questo periodo, per condizioni particolari che vedremo dopo, vi è un picco di domanda più alto del normale, con un deficit che ha raggiunto il 20% rispetto alla capacità installata, e questo combinato a un guasto nella rete generale nella zona di Agra del nord dell'India ha provocato un effetto a catena. Ecco, ricordiamo che l'India è divisa in 4-5 macro reti regionali a seconda delle zone del paese, ecco, quindi in questo caso vi è stato un effetto a catena per quanto riguarda tutta la rete del nord dell'India, che poi ha cercato di sopperire importando energia dal nord-est, però ha provocato un eccesso di domanda nel nord-est e allargando l'area degli stati colpiti da problemi energetici nel giorno successivo. Sì, ecco, dottor Mezzetti, io facevo riferimento agli impianti di condizionamento, per esempio, ma era poco meno di una battuta. In realtà la situazione climatica indiana gioca un ruolo fondamentale in questo blackout. Beh, diciamo, non è una battuta, ecco, in quanto diciamo in India i picchi di domanda vengono soprattutto nel corso dell'estate, perché appunto vi è molta domanda legata soprattutto al condizionamento, che sia per uso ufficio che per uso domestico. Altro fattore che ha condizionato il fattore climatico è il fatto che il monsone quest'anno in India è particolarmente deficiente. Ha una carenza di piovosità nel nord dell'India, nelle regioni colpite, che supera il 20% rispetto alla media delle precipitazioni annuali, e il monsone ha un impatto forte sull'economia indiana. Ha un impatto forte perché è in questo periodo dell'anno che si piantano molti raccolti estivi. Il mancato monsone porta a una minore produzione agricola, a un aumento dei prezzi agricoli e quindi a un aumento di inflazione, e in questo caso porta a una domanda energetica. Si pianta durante la stagione delle piogge, quando i terreni sono più morbidi. La scarsità di piogge ha provocato un grosso aumento di domanda di acqua irriga, quindi c'è stato un eccesso di pompaggio dal settore agricolo per scopi irrigui, che ha contribuito unitamente agli altri consumi in eccedenza dovuti all'estate e alle temperature più calde del periodo per la mancanza delle piogge, a creare questo fenomeno di eccesso di domanda. Ecco, vediamo poi tra l'altro che l'India ha una politica energetica per quanto riguarda gli agricoltori, che possono accedere gratuitamente, ecco, all'energia elettrica dalla rete per scopi irrigui, quindi è stato un fenomeno abbastanza naturale che ci fosse stato un eccesso di consumo in questo senso. Dottor Mezzetti, come il governo indiano sta contrastando, sta rimediando a queste fragilità strutturali che, mi sembra di capire, minano in maniera evidente capacità di crescita economiche notevoli del paese? Ma il governo indiano, e non solo il governo indiano, ecco, l'India è un paese che ha da tempo aperto una grossa riflessione, ecco, sul tema della diversificazione energetica. Ecco, al momento l'India dipende, ecco, per due terzi delle proprie risorse energetiche da fonte termica, in particolare dal carbone. Un 20% dipende dalla fornitura idroelettrica, e anche in questo caso le piogge hanno inciso, e solo un 10% da rinnovabili e 3-4% dal nucleare. Il governo indiano sta puntando molto, ecco, a recuperare le risorse idriche di energia idroelettrica con la mini Idel, col mini idroelettrico, e a puntare a una forte politica di promozione del rinnovabile e anche a ampliare la struttura delle centrali nucleari esistenti, cosa che comunque è in buona parte anche contestata in molti casi dalle popolazioni locali. Ecco, mi pare di capire che il dibattito sulle energie alternative, da quello che dice, è molto acceso, molto vitale, forse molto più che da noi in Italia e in Europa in generale. La posizione della popolazione indiana nel suo complesso, se possiamo così sintetizzare, rispetto al nucleare, perché proprio nei giorni scorsi ci sono state svariate manifestazioni in un altro paese asiatico, mi riferisco al Giappone e a Tokyo. Qual è l'attitudine, qual è la sensibilità, il termometro degli indiani rispetto all'utilizzo dell'energia nucleare? Ma in questi ultimi anni, soprattutto dopo il maremoto in Giappone, l'incidente centrale nucleare in Giappone, ecco, c'è stata una forte sensibilità e forme di protesta, ecco, rispetto ai principali progetti di centrali nucleari che sono in corso nel paese. Ecco, mi riferisco in particolar modo a progetti nel Maharashtra, nell'India occidentale, che è lo stato di Bombay, o nel Tamil Nadu, che è nell'estremo sud. Ecco, è chiaro che il nucleare può dare una risposta, ma non è la risposta in assoluto, ecco, perché i problemi dell'India non sono tanto nella capacità installata, che come abbiamo detto è deficitaria e ha raggiunto un deficit del 20% quest'anno, ecco, rispetto a un 12% di 2-3 anni fa, ecco, quindi la domanda cresce molto rispetto ai picchi, ma il problema dell'India è soprattutto un problema di rete. Le reti sono deboli, la produzione di energia elettrica è stata liberalizzata, quindi è possibile per i privati investire e produrre energia elettrica, il 20% dell'energia elettrica indiana è prodotta da privati, ma la distribuzione è ancora monopolio degli stati regionali, delle regioni, con infrastrutture elettriche e cavi che sono estremamente obsoleti. E sarà quindi quella... Questo è uno dei nodi fondamentali, ecco, proprio non a caso, prima ancora che succedesse questo blackout, ci sono indicazioni di un rimpasto di governo, ecco, che lasciano intendere anche che la nuova compagine di governo tenterà una forte azione di riforma nel settore energetico. Queste erano indicazioni che venivano già a fine della settimana scorsa, ecco, prima di questo episodio, e ci si aspetta una riforma che renda più efficiente il sistema di distribuzione, che consenta o investimenti privati o la possibilità ai privati di entrare nel mercato della distribuzione, che in questo momento rappresenta un grosso collo di bottiglia. E quindi l'energia sarà la nuova sfida del governo e dell'eventuale rimpasto di governo indiano. Ringrazio Sauro Mezzetti, presidente della Camera di Commercio Indo-Italiana di Chennai, agente consolare onorario per Pondicherry e membro del Comitato Scientifico Osservatorio Asia. Grazie, buon lavoro, buona giornata. E dunque vi preannunciavo una nostra incursione in Congo, la facciamo in un modo un po' strano perché ci colleghiamo invece con l'Italia, dove c'è un congolese, si chiama John Palizza, che sta marciando, è partito da Reggio Emilia alcuni giorni fa, sta marciando alla volta di Bruxelles per fare cosa? Beh, per accendere i riflettori sul conflitto congolese, in generale su un paese troppo spesso dimenticato dai media e anche dall'Europa. John Palizza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, innanzitutto la prima domanda è dove si trova adesso? Adesso mi trovo a Castel Maggiore o diciamo tra Piacenza e Pavia. Ecco, siamo all'inizio di questa lunga marcia. Castel San Giovanni, per la precisione, ecco, Castel San Giovanni. Quando conta di arrivare a Bruxelles? A Bruxelles arriviamo il 22 settembre. 22 settembre? Dice arriviamo perché in effetti è una carovana che farà arte, teatro, musica, spettacolo, insomma un'iniziativa creativa per cercare di riparlare del Congo. Noi da parte nostra, nel nostro piccolissimo, lo cerchiamo di farlo spesso, ma come sappiamo a volte ci vuole anche arte, creatività e musica per, come dire, far appassionare la gente a temi che spesso sono percepiti come distanti. Che cosa chiederete a Bruxelles? A Bruxelles, o meglio a Strasburgo, dove sì, si dice che saremo ricevuti, si spera, dal Parlamento europeo, chiederemo in sostanza due cose che sono che cosa ci fa la MONUSCO nel Congo, in quanto la MONUSCO è una delle missioni più importanti, anzi è la più numerosa in tutta la storia dell'ONU, la più costosa, ma non ci sono veramente risultati. Ogni volta che ci sono delle uccisioni sentiamo dire: noi non possiamo rispondere in quanto le regole di ingaggio non lo permettono. Questa è veramente la prima cosa che chiediamo. La seconda cosa è di moltissima attualità: nel Kivu la gente continua a morire. C'è un rapporto dell'ONU del 26 giugno che dice che il Ruanda sponsorizza, anzi il Ruanda ha creato il movimento M23, che è quella che crea le ribellioni all'est, quindi finanzia sia militarmente che finanziariamente. Allora, l'ONU con questo rapporto degli esperti praticamente ha detto che bisogna che il Ruanda si ritiri, il Ruanda prende anche provvedimenti rispetto ai suoi uomini. Gli Stati Uniti hanno più o meno condannato, perché hanno cancellato alcune cooperazioni militari, sì. Ho sentito anche la Germania. Chiediamo che la comunità europea prenda una posizione, perché non l'Italia, non la Germania, non la Francia, ma che la comunità europea ci possa anche dire: noi ci siamo, prendiamo questa decisione, in quanto veramente conosciamo il problema del Congo, perché non si risolve il problema all'est del paese se non si pensa a questa questione del Ruanda. Poi non è solo il Ruanda, perché sappiamo che il Ruanda è una marionetta, insomma. Adesso cercheremo di fare chiarezza su questo complicato quadro che John Palizza, mentre è in marcia, come dire, ha dato le prime pennellate. Grazie intanto John, e non mi resta che augurarle buona marcia verso Bruxelles. Io la ringrazio e ringrazio anche tutti gli ascoltatori, grazie mille. Il complicato scacchiere nella regione dei Grandi Laghi, che si focalizza inevitabilmente e sempre da 10 anni sull'est del Kivu, ascoltiamo insieme le ultime tappe di questa sanguinosa storia. La Repubblica Democratica del Congo, anche nota come Congo Belga o Congo Kinshasa dal nome della sua capitale, è il paese francofono più popoloso dell'Africa centrale. Tra il 1998 e il 2003, il Congo è stato al centro di quella che potrebbe essere definita la guerra mondiale in Africa, e che l'ha lasciato nella morsa di una crisi umanitaria. I 5 anni di conflitto hanno visto le forze governative sostenute da Angola, Namibia e Zimbabwe scontrarsi con i ribelli sostenuti da Uganda e Ruanda. Dopo diverse guerre e ripetuti conflitti, nell'agosto del 2008 scoppiano pesanti scontri in Kivu, a est del paese, tra le truppe dell'esercito governativo e i combattenti fedeli al leader ribelle Tutsi, Laurent Nkunda, appoggiato non ufficialmente da Ruanda. Spodestato da Bosco Ntaganda, Nkunda viene arrestato nel gennaio del 2009 in Ruanda. Il conflitto si va così attenuando e le milizie del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo, guidate da Nkunda, vengono reintegrate nell'esercito governativo congolese e riassegnate negli stessi luoghi nei quali già combattevano. Lo scorso aprile alcune centinaia di soldati hanno disertato l'esercito del Congo e si sono uniti agli insorti di etnia Tutsi, guidati da Bosco Ntaganda, dando vita a un nuovo gruppo di ribelli denominatosi M23, dal protocollo di pace firmato il 23 marzo 2009, ma da questi considerato fallimentare. Infatti, dopo l'emissione di mandato di cattura della Corte Penale Internazionale dell'AIA nei confronti di Ntaganda, e dopo che il capo del governo generale del Congo, Joseph Kaliba, ha fatto intendere che l'avrebbe consegnato alla giustizia, il leader dei ribelli ha disertato con un manipolo di fedelissimi, nascondendosi a nord di Goma, la capitale della provincia al confine con l'Uganda. Proprio in questi giorni, le forze regolari della Repubblica Democratica del Congo e i caschi blu della missione delle Nazioni Unite nell'ex Zaire hanno attaccato con elicotteri le postazioni dei guerriglieri del gruppo M23, ancora attestati intorno a Goma. Questo è lo stato dell'arte del complicato scacchiere nel nord Kivu. Cerchiamo di fare chiarezza e lo facciamo grazie a Donatella Rostagno, a cui do il mio buongiorno. Donatella. Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. Donatella Rostagno è analista politico e segretario esecutivo di EURAC, che è un network europeo di ONG per l'Africa centrale che conosce molto bene il Kivu e quei complicati paesi. La prima domanda, cerchiamo di fare chiarezza e ti prego massima sintesi, Donatella. M23 è questa nuova sigla, una delle tante che imperversano, in realtà orientarsi in questa giungla di gruppi ribelli è spesso difficile. Che cosa vuole M23? Che cosa chiede al governo di Kinshasa? Quali rivendicazioni? Ma senti, M23 appunto è questo gruppo che in realtà, se vuoi, a parte il nome nuovo, non ha poi molto niente di nuovo, perché è un gruppo che si è riformato sulla falsa riga del CNDP, di cui voi avete ancora parlato. Avete anche parlato del trattato, insomma, sì, del 2009, del 23 marzo, che prevedeva quindi l'inserimento di questo CNDP nell'esercito congolese. Quello che denunciano adesso queste persone è che il trattato non è stato attuato, insomma, e che le promesse che erano state fatte in termini politici a questo gruppo non sono state mantenute, soprattutto, questo quello loro dicono, in termini di difesa della popolazione dei Kivu e del ruolo che l'esercito dovrebbe avere. E su questa base hanno deciso di ricominciare la ribellione, diciamo. E adesso scopriremo, squarciando piano piano questo velo di Maya che accompagna ogni volta la ribellione in Kivu, gli interessi che stanno dietro. Però andiamo a Goma. dove poche ore fa abbiamo raggiunto Kati Katai, che è un reporter di Vox Africa, che è un network panafricano in lingua inglese. Kati, inviato in Kivu, ci racconta la situazione di Goma. Fino ad oggi la città di Goma è tranquilla. Ci sono sempre voci che si rincorrono, ma tutte da confermare, su una possibile avanzata ribelle. Le posizioni dell'M23 sono a circa 30 chilometri dalla città. Secondo alcune informazioni che mi giungono proprio dai ribelli, la città di Goma non sarebbe minacciata e la capitale del Nord Kivu non sarebbe una loro priorità. Alcuni cittadini di Goma parlano di un possibile attacco, ma non ha nulla a che vedere con le informazioni che ci danno i ribelli. Da due giorni a questa parte non ci sono più scontri tra ribelli e governativi. Quindi diciamo che la situazione per il momento è statica. E come avete sentito, ovviamente non è in lingua inglese, è stato un mio lapsus, chiedo venia, è in lingua francese. A Kati Katai abbiamo poi chiesto se sia vero che in qualche modo stiano spostando il quartier generale da Bunangana, che è al confine con l'Uganda, quindi più a nord, a Rutshuru, che è una cittadina più vicina a Goma, più vicina alla capitale del Nord Kivu, e quindi potrebbe essere più facile per i ribelli gettare fiato caldo sul collo del governo congolese. Non possiamo dire che i ribelli abbiano stabilito il loro quartier generale a Rutshuru, ma il villaggio è sotto il loro controllo. La loro base è a Bunagana, dove c'è il grande quartier generale, ma in effetti da alcuni giorni hanno recuperato le loro posizioni, fino a Kiwanja. Ma la base, ripeto, è a Bunagana, alla frontiera con l'Uganda. La popolazione non è né per il governo centrale di Kinshasa né per i ribelli. È solo gente stanca della guerra, di una guerra che vive da più di 10 anni. Non ho ancora incontrato qualcuno qui che mi dica: sì, io sostengo i ribelli. Mi dicono magari che sono delusi dal governo, ma la ribellione non ha davvero un gran sostegno da parte della popolazione. La MONUSCO sostiene le FARDC attivamente. Pochi giorni fa ha effettuato operazioni con elicotteri e carri per bombardare posizioni ribelli a Rutshuru, Rugari e altre località. E quindi c'è piena cooperazione tra i due organismi. E la MONUSCO è chiaramente contro i ribelli, i quali accusano i caschi blu di non essere neutrali ma di appoggiare il governo. Ecco, Donatella Rostagno, partiamo proprio allora dalla MONUSCO, che, come abbiamo sentito, partecipa in maniera assolutamente attiva in questo conflitto, perché sta appoggiando un tempo solo logisticamente, adesso aprendo il fuoco. I caschi blu appoggiano le forze governative contro i ribelli. Questo rientra nel loro mandato o c'è stato un cambiamento? Ma Giampaolo, direi che rientra nel loro mandato, nel senso che il mandato che poi era stato, non rientra nel nuovo mandato, ma il mandato appunto della MONUSCO, che dice che la MONUSCO deve, con tutti i mezzi a sua disposizione, proteggere la popolazione, e lo deve fare in cooperazione e sostenendo le FARDC. Quindi io direi che sì, rientra nel mandato, nel momento in cui la popolazione è minacciata, e in questi ultimi tempi lo è stato moltissimo minacciata. Direi che si rientra in quello che loro devono fare, proteggere la popolazione. Se il modo per farlo è utilizzare le armi, devono farlo. Ecco, fra l'altro ricordo, John ricordava come è la più grande missione al mondo, se non erro sono 18.000 caschi blu dispiegati in Congo, in particolare in Kivu. In Nord Kivu ci sono battaglioni di indiani e di uruguaiani che spesso ingaggiano non solo con M23, ma anche con altri gruppi ribelli come gli FDLR, che sono i fuoriusciti ruandesi, che insomma da anni destabilizzano la regione. E fra gli interessi nascosti che si giocano in Kivu, uno dei principali è stato svelato dal recente rapporto degli investigatori dell'ONU, cui faceva riferimento anche John Palizza. Questo rapporto degli investigatori dell'ONU dice chiaramente che il gruppo ribelle M23 è stato in qualche modo ideato e sostenuto dal vicino Ruanda. Tanto è stato che gli Stati Uniti hanno recentemente tagliato i fondi, erano 200.000 dollari l'anno, ma erano fondi diretti in spese militari per l'amico Ruanda, beh, insomma, hanno chiuso i cordoni della borsa e questo è un segnale importante. Donatella, l'Europa come si sta comportando nei confronti di un Ruanda che ha, come dire, delle ambiguità molto forti in quella zona in tema di politica estera? Sì, infatti hai ragione. Senti, come diceva un po' John, noi siamo rimasti anche abbastanza delusi dalla reazione dell'Unione Europea, che secondo noi, anche accanto a quella degli Stati Uniti, è stata molto debole. E qui parlo di Unione Europea, perché su questo sono d'accordo con John, in questo momento per la complessità della situazione nei Kivu abbiamo bisogno di una reazione dell'Unione Europea e non di alcuni stati singoli. Questa reazione ha parlato appunto di preoccupazione per la situazione nell'est del Congo, però non è andata molto più in là di questo. Questa reazione debole, che io chiamerei debole, è stata seguita in realtà poi da tre reazioni un po' più forti dalla parte della Germania, della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi, che hanno deciso anche loro, in seguito anche alla decisione degli Stati Uniti, di tagliare i fondi che erano destinati al sostegno del budget del Ruanda. Quindi da un lato questo è un segnale forte, se vuoi, da questi tre stati, dall'altro non è sufficiente fino a quando l'Unione Europea, in quanto partner privilegiato internazionale del Congo, si esprime, insomma. Ed è questo uno dei motivi perché arrivano gli SMS che chiedono giustamente: ma perché John non va a fare questi reclami direttamente all'ONU? Beh, insomma, il partner più vicino è l'Europa. L'Europa ha una tradizione, una storia di presenza nell'Africa centrale, in quella regione, che in qualche modo è stata rimpiazzata da altri attori, ma che da più parti si dice, insomma, dovrebbe essere rinverdita. Non parliamo solo di investimenti o di neocolonialismo, parliamo di responsabilità di politica estera e di responsabilità rispetto a una popolazione che soffre. E non dimenticare anche che l'Unione Europea ha comunque un ruolo nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto alcuni membri dell'Unione Europea sono membri del Consiglio di Sicurezza. Quindi, al di là di tutto, io credo che John faccia la cosa giusta nel indirizzarsi a un attore internazionale che è molto importante in Congo e che ha un ruolo anche molto importante da giocare nell'interno delle Nazioni Unite. Certo, e questo era per rispondere a una delle sollecitazioni che ci sono arrivate al 349-238-6666. Apriamo il capitolo Terminator, che detto così sembra una facezia dal sapore cinematografico. Terminator è il nome di battaglia di Boss Ntaganda, generale, ex numero 2 di Laurent Nkunda. Ha sulla sua nuca un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, ha reclutato bambini soldato, si è macchiato di svariate uccisioni, ha una carriera militare incredibile, ha passato probabilmente tutti i gruppi ribelli possibili in Congo, è fondamentalmente un mercenario, si dice da più parti un burattino nelle mani del Ruanda, ma un burattino che sta diventando sempre più prezioso, perché Moreno Campo qualche mese fa, insomma, gli ha lanciato questo strale, no? Insomma, di questa condanna. E quindi Kabila poi che cosa ha fatto? Qual è stata la risposta del governo congolese rispetto alla richiesta della Corte Penale Internazionale? Ma dopo un lungo silenzio, bisogna dire, la risposta del governo congolese e di Kabila a un certo punto è stata una dichiarazione in cui Kabila si è detto disponibile a effettivamente processare Bosco Ntaganda, ma non di consegnarlo nelle mani della Corte Penale Internazionale, ma di processarlo a livello nazionale in Congo. Quello che è successo appunto è che dopo questa dichiarazione di Kabila, diciamo che questa ha facilitato la fuga di Bosco Ntaganda, sì, da Goma. Quasi, insomma, un segnale d'allarme, ma abbiamo citato più volte il Ruanda, torniamo e apriamo il capitolo Kigali. Perché? Perché Ruanda da tempo tiene tanti piedi anche nel territorio dell'est del Kivu, è un po' un segreto di Pulcinella, tutti sanno che da tempo infiltra agenti, a volte ufficialmente perché sono state operazioni militari congiunte contro i fuoriusciti ruandesi, le milizie Hutu responsabili del genocidio del 94. Ma perché il Ruanda continua a debordare, perché continua a avere interessi nell'est del Kivu, Donatella? Ma il Ruanda è molto interessato alle ricchezze del Kivu, questo si sa anche che appunto il Ruanda è un paese che non ha nessuna ricchezza nel suo sottosuolo e che quindi per sopravvivere, per vivere, deve servirsi delle ricchezze che ci sono in Kivu. Questo può farlo soltanto attraverso un controllo del territorio, e il controllo del territorio lo può fare soltanto attraverso una presenza fisica, che sia di suoi rappresentanti oppure sostenendo appunto i tutsi congolesi di cui si parlava. E le ricchezze di cui parliamo sono coltan, sono oro, sono diamanti, sono il legname, non dimentichiamolo, perché poi uno viaggia nelle foreste del Kivu a caccia, no, delle cose preziose più nascoste, e poi di fronte a sé invece ha una ricchezza incredibile. In passato trafficanti di minerali preziosi sono stati pescati con le mani nel sacco, ma la realtà è che le milizie armate che controllano quei territori consentono poi sfruttamenti illegali. In chiusura, Donatella, ti chiederei di sfregare la sfera di cristallo e far apparire lo scenario futuro del Congo e del Kivu. Ma senti, il problema secondo me è che gli interessi sul Kivu sono enormi, e non soltanto del Ruanda, ma se vuoi anche del governo congolese, che fino adesso non ha dimostrato di avere una volontà politica di risolvere la questione Kivu definitivamente. Ci sono interessi enormi anche da parte di multinazionali e di una comunità internazionale in generale, diciamo. Quindi gli interessi sono dovuti al fatto che il Kivu è, come l'hai detto tu anche, se non la regione più ricca del mondo, tra le regioni più ricche del mondo. Quello che credo è che l'intenzione di questo gruppo M23 sia di destabilizzare questa regione per poter avere una forza nel negoziato politico con il governo congolese, e per poter continuare in futuro, che sia come parte dell'esercito congolese o come gruppo ribelle, a mantenere il suo controllo, e quindi attraverso questo gruppo il Ruanda continuerebbe ad avere il controllo su questa regione e sulle ricchezze. Credo che sia difficile dire cosa succederà, certo, ma credo che quello che succederà nelle prossime settimane è effettivamente questo. Se non è proprio l'interesse di prendere Goma da parte dell'M23, l'interesse è di dimostrare al governo congolese che sarebbero capaci di farlo, e che quindi hanno la capacità, la forza e la capacità fisica e militare ovviamente, di entrare in possesso delle risorse. Ecco perché poi la strategia dei tanti gruppi armati in quella regione è quasi sempre la stessa: mostrare i muscoli per far vedere di cosa si è capace e poi sedersi al tavolo delle trattative e riempire la saccoccia, perdonatemi la brutalità, di oro e diamanti a spese di centinaia di migliaia di rifugiati che, ripetiamo, sono in queste condizioni da 10 anni. Grazie Donatella Rostagno per la tua chiarezza, come al solito, e lucidità. Grazie a te. Stessa chiarezza e lucidità che un'ascoltatrice giustamente dice, parla di John Palezza, insomma, e fa riferimento all'aggressività, dice, di noi occidentali, la nostra ignoranza quando avanziamo pretese assolutamente idiote, e noi con la pancia piena quando parliamo di certi temi. E insomma, ha ragione. Che dire? Grazie al messaggio di Marina da Milano, adesso abbiamo il tempo, sì, di girare il mappamondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. Giriamo il mappamondo per andare in realtà abbastanza vicini, andiamo a Mosca. Vi cito un editoriale in prima pagina quest'oggi di Le Monde, che torna su quel incredibile processo delle Pussy Riot, questa band punk moscovita, queste tre giovani avvenenti ragazze che hanno fatto questo concerto in una chiesa, scatenando le accuse da parte delle autorità giudiziarie. Adesso rischiano, pensate, fino a 7 anni. L'editoriale di Le Monde titola "A Mosca, l'assurdo processo delle tre cantanti", e dice: il tribunale dove si celebra, il tribunale moscovita dove si celebra questo processo, è, guardate un po', lo stesso dove nel 2010 fu condannato per la seconda volta per un processo chiaramente da tutti battezzato politico il magnate del petrolio Mikhail Khodorkovsky. E l'editoriale mette molto bene in luce come alla fine non si sta parlando di musica, non si sta parlando di religione, per questa era poi l'accusa principale, ma sembra che insomma queste sonorità punk delle tre ragazze facciano vacillare il potere di Putin e il suo regime. Ed è fresca battuta dalle agenzie proprio adesso in Egitto. Fonti di governo, fratello musulmano, ministro dell'istruzione superiore, e fin qua insomma niente da ridire, però un generale al ministro dell'interno, e questo forse farà venire il mal di pancia a non tanto ai fratelli musulmani, ma forse più ai salafiti. Mursi, lo sapete, sta riunendo la compagine governativa, e il generale Ahmad Gamal Edine dovrebbe essere appunto il nuovo ministro dell'interno. Le fazioni liberali probabilmente tremano, perché insomma potrebbe essere un po', come dire, il vecchio regime che continua a mantenere un passo, un piede dentro al nuovo. È tutto anche per oggi, non mi resta che ringraziare Massimo Brugnone, Mira Lucchetti in redazione, Robby Scaltriti alla parte tecnica e naturalmente voi, gentili ascoltatori, per essere stati con noi. Quindi l'appuntamento è domani 13:15 qui su Radio 24.